известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Mr. President, Mrs. Obama, the Ford Theater Society would like to show our appreciation for your participation tonight and to thank you for all you have done and all you will do. The bicentennial of the birth of President Abraham Lincoln. It is this sense of unity that is so much a part of Lincoln's legacy. For despite all that divided us, North and South, black and white, he had an unyielding belief. Ed eccolo Barack Obama che comincia quello che in certi casi è un po' un refrain, no? La ripetizione, il ricordo, la rievocazione di quelli che sono stati i temi su cui ha costruito la sua elezione. Li sta pronunciando in sottofondo, non ve li faccio sentire ancora una volta perché tante sono le volte che li abbiamo ascoltati, ma interessante invece è l'occasione in cui queste parole ieri sera sono state spese, perché non passa giorno in questa frizzante, no, fine d'inverno a Washington DC che non ci sia una grande messa in scena. Si susseguono, la vera grande messa in scena è quella che naturalmente sta palleggiando tra Camera e Senato, dove lo stimolo economico ormai è vicino al traguardo, e ne parleremo alle 4:30 con Mario Platero. Discuteremo anche alcuni aspetti collaterali, alcuni effetti collaterali di questa grande, enorme, probabilmente memorabile procedura. Però ci sono invece eventi più mondani, o se vogliamo anche culturali, come quello al quale ha partecipato ieri sera per l'appunto Barack Obama insieme alla consorte Michelle, perché ha dei legami storici. Poi vedremo dei legami storici che vanno un po' a spasso anche nella nostra puntata di oggi di Jefferson. Che cosa è successo? È successo che a Washington c'era un teatro chiamato Ford's Theater. Il Ford's Theater è conosciuto da tutti, anche i bambini americani, perché lo studiano sui libri di storia, perché è il teatro all'interno del quale avvenne l'assassinio del presidente Abramo Lincoln. Booty, il suo killer, gli sparò alle spalle con un piccolo revolver mentre il presidente con la sua consorte stava assistendo per l'appunto a uno spettacolo teatrale all'interno di questo teatro Ford, che poi nonostante l'importanza, no, anche nell'immaginario, nella potenza evocativa del luogo, era caduto in disgrazia, ma adesso è stato completamente recuperato, riattato, rimesso a nuovo con tra l'altro un forte impegno economico, e ieri sera è stato inaugurato con uno spettacolo a cui ha partecipato, come si dice, tutto il bel mondo, anche un Obama sollevato sia dal breve tour che si era concesso andando a cercare la sua base, no? La sua base elettorale, i suoi elettori, quelli con i quali così bene sa padroneggiare il dialogo. Il viaggio lo aveva portato in giro per l'Illinois, ma anche giù nella Florida dei poveri. Vi abbiamo ieri raccontato degli episodi riguardo a questo viaggio, e soprattutto poi era rinfrancato dalle buone notizie in arrivo dal congresso, per cui ha partecipato, ha fatto un breve discorso, poi si è suonata musica tradizionale. E c'è stato un violinista che si chiama Joshua Bell che ha aperto lo show suonando uno spiritual tradizionale che per l'ultima volta era stato suonato all'interno di quel Ford Theater proprio la notte nella quale spararono ad Abramo Lincoln. C'erano anche tante star dello spettacolo, c'era Sidney Poitier, uno dei principali, forse il più insigne esponente del mondo dello spettacolo afroamericano. Pensate che scoperto tra l'altro con sorpresa che ha 81 anni Sidney Poitier, che ha fatto anche delle dichiarazioni ufficiali, ha parlato al pubblico sottolineando l'importanza del passaggio relativo alla elezione di Barack Obama alla presidenza. Poi è arrivato anche Lucas, no? il grande regista George Lucas, il grande regista di Guerre Stellari, che non ha mancato naturalmente di paragonare Barack Obama agli eroi della sua saga, però poi ha voluto insistere rivolgendosi a Barack Obama sull'importanza dell'investimento sulla educazione dei giovani americani. La nostra specie, la specie umana, sopravvive e sopravviverà finché ci funzionerà il cervello. Queste sono state le parole pronunciate da George Lucas. E a proposito di specie umana, a proposito di Abramo Lincoln, guardate quanti strani intrecci si mettono insieme, perché oggi è per l'appunto, e anche a questo era collegato naturalmente questo evento di Washington, il 200° anniversario della nascita di Abramo Lincoln, nascita che ebbe luogo in un posto mica tanto ben precisato, ci sono discussioni, ci sono dibattiti, si sa che era nella contea di LaRue, nello stato del Kentucky, ma che fosse una capanna o l'altra, Abramo Lincoln, che nacque poverissimo, non è proprio esattamente stabilito. Nello stesso giorno assai fortunato direi per il genere umano, no? Questo 12 febbraio 1809, a molti molti molti chilometri di distanza, in una contea chiamata Shropshire in Inghilterra, vicino a una cittadina più nota che si chiama Shrewsbury, vedeva la luce Charles Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione. Pensate, stesso giorno, migliaia di chilometri, e naturalmente due secoli dopo celebrazioni che si intrecciano, celebrazioni che passano oggi anche per Jefferson, perché così un po' colpiti, prima di tutto da sempre personalmente appassionato il sottoscritto alla figura di Darwin, anche per quello strano misto, no, di alto e basso, se me la passate. Darwin è stato lo scienziato della portata che tutti sappiamo, ma anche un uomo assai interessante al di fuori della sua professione, e oggi abbiamo voluto lanciare, leggendo tanti articoli soprattutto sulla stampa anglosassone ma anche italiana, relativa al dibattito che non finisce mai, forse interminabile, sull'evoluzionismo, vi abbiamo lanciato una piccola provocazione via Facebook, della quale vi diremo tra pochissimo. Intanto in America, in particolare a Washington, in particolare al Memorial di Abramo Lincoln, sono in corso delle grandi celebrazioni che dureranno tutta la giornata e dureranno tutto l'anno. Sono annunciate migliaia di titoli relativi alla storia di questo presidente, anche perché poi il 44° presidente, come sapete bene, ha pensato assai intensamente, con tanta forza, con tanto slancio, di riferirsi proprio a quello che aveva fatto molto tempo prima, un secolo e mezzo prima, il presidente semplicemente numero 16. E quindi questa asse, no, che collega Barack Obama ad Abramo Lincoln, ormai è un dato di fatto ed è ridiventata ad essere materia per la cultura popolare. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Come si fa? Siamo tutti qua a sospirare, a guardare fuori dalla finestra, a ricordare quel certo giorno, che guardi. Canzone che spezza i cuori, questa l'abbiamo voluta anche per dare, no, un filino di solennità a questo doppio anniversario che vi abbiamo ricordato, che comunque è un appuntamento gioioso. E poi abbiamo voluto metterci un po' di pepe su Facebook, scrivendo una piccola provocazione che suona più o meno così: è il 200° anniversario della nascita dello scienziato britannico Charles Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione. Il suo dettato, la sua teoria, per quanto imperfette e datate, sono chiare e condivise. Nell'anno 2008 capita di leggere però, a firma di un grande nome della scienza italiana come il fisico Antonino Zichichi, una frase così: l'evoluzione biologica della specie umana va distinta da tutte le altre forme di evoluzione biologica, e questo per un motivo semplice: tra le innumerevoli forme di materia vivente noi siamo l'unica dotata di un privilegio straordinario, quello di saper decifrare la logica di colui che ha fatto il mondo. E vi abbiamo chiesto, così distinto in sintesi, quale reazione provoca in voi la lettura di questa frase per celebrare il compleanno di Darwin e di chi lo ama e di chi lo ama meno, e voi naturalmente vi siete espressi. Express yourself. In tantissimi. Tantissimi, veramente la scia oggi è lunghissima. Allora apriamo la selezione con Renzo, puntuto, divertito e divertente. Allora Renzo dice: l'affermazione di Zichichi mi sembra l'evoluzione delle affermazioni della moglie dell'arcivescovo di Worcester seguite all'uscita del libro di Darwin, L'uomo discende dalle scimmie, certo. Disse la donna: mio Dio, speriamo che non sia vero, o almeno che non si sappia in giro. Poi c'è Riccardo che si compiace, che dice: io e Darwin, e aggiungo io Lincoln, facciamo gli anni lo stesso giorno. Al di là degli scherzi, dice: non sono per niente ottimista in materia, temo davvero che tra qualche centinaio di anni Darwin verrà ricordato come una specie di Nostradamus. In che senso? Un veggente, non lo so, le profezie negative. Cioè uno che non ci ha preso. Chiediamo forse anche quello, chiediamo a Riccardo di esprimere. lo spiega dopo. Un po' eccentrico e blasfemo, ecco. Mentre i creazionisti domineranno l'universo. Ah, quello, apocalittico. Il quadro di Riccardo. Chiudo questo primo giro con Simone che dice: il darwinismo non esclude certo l'esistenza di un'eventuale entità superiore, quindi cerca l'eterno accordo tra Dio e Darwin, se vogliamo. Fabiana, io sono assolutamente d'accordo con il professor Zichichi, ma ci resta ancora tanto da decifrare. Mauro, unità nella diversità, questo è in sintesi il grande insegnamento darwiniano, un unico processo evolutivo che genera molteplici biodiversità. Flavio, non sono molto convinto che siamo l'unica specie dotata di un privilegio straordinario, quello di saper decifrare la logica di colui che ha fatto il mondo. Intanto bisognerebbe capire chi è colui, o se sono più soggetti che hanno progettato il mondo. Qui il discorsetto si allarga un tantino. Chi sono e dove andiamo? Mukeba scrive: Darwin è stato uno dei primi a capire che siamo animali intelligenti, ma pur sempre animali. Allora, altri pareri. Luigi, molto duro con Zichichi, dice: Zichichi è stato colpito anni fa da una crisi mistica e presumere che le sue affermazioni siano quelle di uno scienziato è una bella acrobazia. Completamente diverso invece il parere di Francesco, che è molto preparato sul tema, perché dice: io ho letto il libro di Zichichi, l'autore non intende sconfessare Darwin o altre teorie scientifiche come la creazione. L'intero libro si basa sul concetto che la scienza è nata con Galileo e i suoi esperimenti, che sono rigorosi e riproducibili, e la conclusione è questa: la teoria dell'evoluzione non fa parte della scienza galileiana perché non è riproducibile, né tantomeno rigorosa, visto che ci sono dei buchi che la scienza attualmente non è riuscita a riempire. Io non sono in grado di commentare questa frase di articolatissima. L'avvento della coscienza. Se ha ragione o no. Sì. No, io ho. Tu sei molto più preparato. Sì, sono preparato perché ci ho lavorato sopra professionalmente, e tutto poi, insomma, alla fine ruota attorno. Sei arrivato ad una conclusione. Io mi sono fatto esporre la conclusione da parte degli scienziati che lavorano sull'evoluzionismo, evoluzionisti stessi, e quindi convinti assertori e difensori di Darwin. C'è questo problema, che un bel giorno è arrivata la coscienza, e quella ancora la spiegazione non ce l'ha. Doriano dice: trovo abbastanza difficile credere che colui abbia di punto in bianco deciso di creare il mondo, e questa è una linea molto diffusa. Fabrizio scrive che da qualche anno il professor Zachichi mette l'accento religioso in primo piano, contraddicendo il pensiero scientifico da cui è partito. Noi in realtà abbiamo preso Zachichi come uno dei personaggi assai in vista che esprimono il grande dubbio, un grande dubbio insomma che arriva su no? fino alle sacre stanze, fino alla Santa Sede. Anche di questo si continua a parlare, a maggior ragione con Ratzinger. Carlo, quando avevo 12 anni Charles Darwin mi portò in giro per il mondo con la Beagle, con la fantasia immagino anche, e mi si è aperto un mondo, il mio parroco non apprezzò molto e io smisi di fare il chirichetto. E ancora? Sì, ce ne sono tanti. Allora, Vito va molto sul pesante, dice Zichichi è un esempio di involuzione della specie, insomma, non ce la vogliamo personalmente con Zichichi. E poi Francesco dice: chi può essere definito padre del mondo se non colui che attraverso se stesso ha permesso il tutto, quindi direi che propende dalla parte di Dio, in questo caso Francesco. Un'ultima serie, Carlo scrive: da semplice profano non posso non constatare una incolmabile differenza tra l'uomo e gli animali. Sonia dice: lei tocca un nervo scoperto, perché non mi pare così assodato che tutti al mondo condividano le teorie di Darwin. Io no, per esempio. Giulio scrive: il professor Zichichi ha perso una occasione per stare zitto. Roberto dice: credere in Dio non vuol dire non credere nella teoria dell'evoluzione. E qui stiamo al cuore del problema, che è certamente diversa da tutti gli altri esseri viventi. Quindi l'osservazione di Zichichi preferisco vederla così, anche se il suo rapporto con la religione è diverso da tanti altri scienziati. Stefano: la Chiesa ha l'arroganza di pensare che tutto ciò che succede è e deve succedere come dice lei. Gianpietro: ci sono gli evoluzionisti, creazionisti e coloro che credono nel progetto intelligente, coloro cioè che ammettono la teoria darwiniana ma sostengono altresì che tutto è stato reso possibile grazie al famoso burattinaio. E poi tanti altri, più che altro contrari agli attacchi a Darwin, che sono un dato di fatto, ma insomma i pareri abbastanza divisi. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Allora, invece, nel nostro giro di notizie per il mondo, ritorniamo sul luogo del delitto, nel senso torniamo in Israele, che è stato al centro delle nostre cronache in questi giorni, giustamente, doverosamente, perché ci sono state delle importanti elezioni. Riprendiamo le notizie appena rimbalzate anche nella GR delle 16, certo. Questa ipotesi di grande coalizione di governo di unità nazionale, non so come chiamarlo, grosse coalizioni, no, come in Germania, tra Likud e Kadima, che farebbero un governo insieme su base paritaria, però il primo ministro sarebbe Benjamin Netanyahu, peraltro con la Livni, queste sono le discrezioni della stampa israeliana, al Ministero degli Esteri, e il terzo incomodo, Lieberman, ministro delle Finanze. Questa notizia direi si ricollega necessariamente anche con quella che riguarda il Papa. Ratzinger ha annunciato praticamente che farà questo atteso viaggio in Israele, lo farà a maggio, ha utilizzato anche un importante avvenimento perché ha ricevuto una delegazione dei presidenti delle maggiori organizzazioni ebraiche americane, quindi insomma ci prepariamo anche noi a seguire l'evolversi, certo, della situazione, certo. Questo viaggio a questo punto imminente, fissato per maggio, del Papa in Israele. E infine, a proposito di viaggi, l'inviato del presidente degli Stati Uniti Holbrooke è giunto nella capitale afghana dal vicino Pakistan. Si sa solo che è giunto, fa sapere l'ambasciata americana a Kabul. Il programma degli incontri non è stato ancora comunicato, e anche di questo parleremo tra poco con Mario Platero, perché naturalmente è rimasto un po' indietro, no, allo scenario internazionale rispetto a quello nazionale, a cui la nuova amministrazione ha dato la precedenza. Ma di tutto questo tra pochi istanti. Ancora qualcosa? Visto che siamo in vena di anniversari e celebrazioni, non voglio riaprire con un nuovo contro la rovescia, però oggi è un anno esatto dalle Olimpiadi, visto che le abbiamo ricordate per tanto tempo con Pechino, insomma ci hanno fatto compagnia per un anno e mezzo. Vancouver 2010, manca un anno esatto, 12 febbraio 2010. Però non ricomincio con conti alla rovescia. Non, hai preso non, paura. Non era, se non è, non mi è. Hai guardato malissimo. State calmi, niente conto alla rovescia. Baby's on fire. So bewitching. Rescuers run. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. E allora, mica per farci così complimenti tra amici, ma Mario Platero ha scritto un pezzo sul Sole 24 Ore che sembra veramente echeggiare quel Tom Wolfe che poi cita in apertura, no? Il Tom Wolfe del Falò delle Vanità, dove gli intoccabili super ricchi a un certo punto vengono chiamati alla resa dei conti, e descrive per l'appunto in questo pezzo una serie non tanto di super ricchi ma di mandanti, non so come dire, di aventi facenti funzione, di aventi diritto, insomma i capi di alcune grandi banche, di quelle che, come ha titolato Newsweek nel numero di questa settimana, si accorgono improvvisamente di essere finiti sotto un inspiegabile ombrello socialista, no? Perché comunque rendono conto assai più di prima adesso allo Stato, devono abituarsi a farlo. E comunque una commissione si è riunita per parlare con questi signori e metterli sulla graticola, a capire se quello che hanno fatto contiene solo gravissimi peccati veniali o anche alcuni peccati del tutto mortali, e se esistono le condizioni per cui tutto ciò si ripeta. Abbiamo chiamato Mario, di questo ma anche di altro vogliamo parlare con lui. Prima di tutto salutiamo, ben trovato Mario. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, in questo articolo è molto vivida così l'immagine, no, della griglia su cui sono stati messi a friggere i nostri amici delle grandi banche americane, ma che cosa li aspetta secondo te? Ma guarda, questa è la domanda chiave, perché io ho avuto l'impressione ieri che questi banchieri non si fossero ancora resi completamente conto di quali problemi anche personali rischiano ad avere. L'atteggiamento era un po' un atteggiamento di sfida, era un po' un atteggiamento di quelli che sono gli unici depositari del sapere, di quelli che possono rimettere in piedi la finanza americana, atteggiamento che non è piaciuto ovviamente a molti deputati. Certo. Abbiamo assistito a delle scene alquanto interessanti, devo dire mi ha colpito molto Maxine Waters, deputata afroamericana della California, la quale non ha così dato spazio alcuno al rapporto amichevole, era aggressiva, faceva delle domande che richiedevano un sì o un no, e nel momento in cui erano incerti diceva no, mettetelo a verbale, a questo punto faremo un'inchiesta per vedere se hanno ragione o se hanno torto. Si è capito anche che questi signori non sapevano granché, mi sono apparsi, devo dirti, alquanto sperduti su alcune domande, certo tecniche, certo uno non può sapere tutto quello che succede in una banca con 200.000 dipendenti e centinaia e centinaia di attività diverse, però direi su quelle che potevano essere le domande chiave, avete aumentato i tassi delle carte di credito? Solo in due hanno saputo rispondere, gli altri non hanno risposto. Insomma, questo per dire che ci si chiede, ci si domanda se si passerà a qualche cosa di più serio, una commissione d'inchiesta, a un procuratore speciale, toccherà proprio alla commissione di Barney Frank, quella dei servizi finanziari che ieri ha organizzato queste audizioni, decidere se farlo o si affiderà il compito a una sottocommissione inchieste. E così si capirà se davvero si andrà avanti. Io credo che questo sia un passaggio importante, quasi, voglio dire, indispensabile per poter restituire all'America la credibilità che ha perduto, perché se alla fine questi signori, li abbiamo visti tutti allineati, sono gli stessi che 5 anni fa in qualche modo così volavano nei loro aerei privati e predicavano al mondo la credibilità degli strumenti e dei prodotti derivati, del rischio, della dispersione del rischio in prodotti accessibili a tutti. Beh, Mario, poi sono gli stessi che stanno battendo cassa alla fin fine, no? Sono gli stessi che stanno battendo cassa, sono gli stessi come nel caso di Merrill Lynch, che dopo aver battuto cassa si sono elargiti i compensi, certo, per 3,6 miliardi di dollari, un fatto questo scandaloso che è emerso ieri con una lettera di Andrew Cuomo, procuratore speciale qui a New York, l'Attorney General qui a New York, procuratore federale, una lettera che ha inviato proprio a Barney Frank dicendogli che aveva chiesto a questi signori informazioni e che aveva fatto partire un'altra inchiesta. Insomma, nel momento in cui tu incassi denaro dello Stato e poi subito dopo ti dai un bonus per 3,6 miliardi di dollari, la maggioranza di questo bonus, tra l'altro, ai vertici, diciamo un centinaio di persone si sono spartite forse 2 miliardi di dollari, significa che questi signori non avevano capito nulla, significa che il signor John Tyne, che era il capo di Merrill Lynch prima del New York Stock Exchange, prima era a Goldman Sachs, che continuava a chiedere bonus speciali, insomma non si rendeva conto che non si può prendere il bonus se le cose vanno bene e prenderlo se le cose vanno male. Insomma, il rischio di capitale è proprio quello, se le cose vanno male si perde. Ecco, questi banchieri hanno dato l'impressione di non saper perdere, di non voler perdere, di continuare così a vivere un po' nel loro oblio. Adesso vedremo se il secondo capitolo si aprirà. Oh Mario, leggendo da qui i giornali americani, la stampa americana, si nota un progressivo cambio di atteggiamento, soprattutto di alcune insospettabili grandi firme nei confronti di Barack Obama. Non è stata una settimana generosa dal punto di vista dei commenti. Si direbbe un po' che l'aria che tira, il titolo dei titoli potrebbe essere: beh, ma questo non era quello che aveva promesso, questa non era il tipo di amministrazione, lo stile, il genere che ci aveva fatto intravedere. Si sa peraltro che lui per primo è esasperato, no, dall'aver dovuto affrontare, imboccare la sua amministrazione con una questione così spinosa, tutta legata all'America domestica, agli affari interni, a una economia da salvare. Però di fatto, insomma, sta andando avanti il procedimento faticosamente ma speditamente. Mi sembra che il controllo che sta avendo sulla opposizione, tutto sommato, sia apprezzabile, insomma, che la sua macchina e anche il suo stile, di questo ti vorrei chiedere, in un certo senso si stia facendo vedere, anche se certo gli argomenti non sono allegrissimi, eppure le simpatie stanno un po' tramontando mediaticamente. Che dici? Sì, perché dunque il suo stile è lo stile prudente di sempre, quello stile controllato che abbiamo sempre visto anche durante la campagna elettorale. Ecco, in campagna elettorale può funzionare, la prudenza gli ha giovato, in politica sul ring non giova, perché volano gli uppercuts, volano i diretti, e quindi tu devi essere pronto a contrastare, e a contrastare con durezza se necessario. Certo. Finora Barack Obama è stato un po' sottotono, questa è la mia impressione, l'abbiamo visto sottotono nella conferenza stampa dell'altra notte, non sembrava completamente in controllo degli argomenti, soprattutto nella parte domanda e risposta, c'è un po' una dicotomia, Obama fa bene in campagna e adesso sta facendo campagna perché è partito, certo, per le zone devastate dell'America a promuovere il suo pacchetto di stimoli, e lì le cose vanno bene, la gente lo accoglie come un eroe, gli indici di popolarità salgono. Non è un po' la sensazione, ecco, che ci sia a Washington la sensazione è leggermente diversa. Che abbia come un problema di adattamento alla Casa Bianca, no? Appena è partito, appena è andato nell'Illinois o in Florida, è tornato a essere, insomma, quel grande anche oratore, quel comunicatore. Dentro le mura, che sono le sue mura di casa, almeno per 4 anni, ha più problemi, mi sembra, c'è secondo me un elemento di solitudine in quest'uomo che arriva alla Casa Bianca come junior senator dell'Illinois, con soltanto 4 anni alla fine al Senato, e quindi con un forte appoggio dall'esterno, ma un atteggiamento guardingo dall'interno, sia per i compagni di partito che per l'opposizione. E lui è partito piano, e dunque a Washington, diciamo, si sta creando un po' l'atmosfera, comincia a riaffiorare un dubbio che era riaffiorato in campagna, che riaffiorava spesso in campagna elettorale, sulla sua preparazione di fondo, sulla solidità delle sue fondamenta. Ecco, siamo appena agli inizi ed è possibile che lui abbia fatto queste scelte con strategie politiche molto precise. Per esempio, è bizzarro che non sia stato lui a scrivere dalla Casa Bianca, coi soloni di cui dispone, da Larry Summers a uno stuolo di economisti, ricordiamolo, è il presidente che ha nominato più squadre di consulenti economici di qualunque altro, adesso addirittura quasi si perde il conto di quante sono le squadre di economisti che in un modo o nell'altro lo assistono. Ebbene, ha delegato al Congresso la stesura del pacchetto di stimoli. La Camera, il Senato, ciascuna delle due Camere ha scritto un pacchetto diverso, ha recepito delle indicazioni che venivano dalla Casa Bianca, ma poi ognuno di loro ha fatto un po' quello che voleva. E dunque Obama, che in qualche modo ha cercato sicuramente di essere inclusivo, di dare a loro la responsabilità di fare le cose in modo che poi avessero responsabilità per superarle e così via, ma non è apparso sufficientemente decisionista, non è apparso come l'uomo che ha il suo pacchetto. E adesso il suo pacchetto contrasta con quello della Camera, certo, contrasta con quello del Paese. Il suo pacchetto è quello che determina le linee, il suo pacchetto è quello che determina le linee guida. Ecco, questo non c'è stato. Certo, certo. Ed è bizzarro. E adesso, per concludere telegraficamente, Mario, adesso tocca agli esteri, che sono fin qui stati l'argomento messo un po' da parte in attesa, no, della grande istantanea mossa che serviva per gli interni. Forse sugli esteri si rivelerà un presidente più intenso, c'è questa speranza? Forse sì, ecco, sugli esteri diciamo che c'è l'elemento rassicurante della presenza di Hillary Clinton, la quale invece è molto decisionista, è molto preparata, le cose, gli argomenti li conosce, e c'è anche Biden, che ovviamente è un uomo di presenza, anche lui grande conoscitore di questioni di politica estera, e quindi però la leadership esterna è sempre una funzione della leadership interna, e quindi è molto importante che Obama, nel momento in cui si presenta all'estero, lo faccia forte, di una straordinaria solidità, non soltanto della base populista, diciamo, del suo consenso politico, ma anche del rispetto assoluto nella capitale. Grazie a Mario Platero per queste sue considerazioni su un'altra complicata settimana a Washington per l'amministrazione che sta decollando, e una, come dicevamo, ancora più complessa perché riguarda poi il mondo intero, è quella che si aprirà lunedì. Questo era un programma che si chiamava Jefferson Ming fino a circa un mese fa preciso, mi sa, no, un po' meno, 19 gennaio abbiamo cominciato. Insomma, però ce lo ricordiamo ancora noi e ci auguriamo anche voi. Si è occupato, non dico al 50%, insomma, ma un bel po' di Cina, continua quindi comunque a sentire proprio questo suo mandato e continua a poter contare sulla propria nutrita schiera, rete, no, di voci, di informatori, di occhi, di italiani che con la Cina hanno un rapporto preferenziale in chiave professionale, ma anche in chiave culturale, in certi casi di residenza vera e propria. Una di queste è Luigi Guarda, lo avete tante volte ascoltato i nostri microfoni, è un vicentino che è stato in Cina per la prima volta nel 79 addirittura, e anche oggi fa continuamente avanti avanti e indietro fra Italia e Cina, fa il consulente per aziende del nord-est interessate al mercato cinese. Noi non manchiamo mai di chiedergli pareri e andamenti, magari sulle notizie che via via sono sulla cresta dell'onda, ad esempio l'economia, no? L'economia, perché il governo cinese ha diffuso dati preoccupanti, ne abbiamo parlato anche ieri, a gennaio meno 17,5 nelle esportazioni, meno 43,1 nelle importazioni, numeri importantissimi appunto. E allora sentiamo che cosa ne pensa Luigi Guarda. I dati sono inoppugnabili, non si possono che confermare, però è un dato che si riferisce al mese di gennaio, cioè diciamo nel pieno della crisi finanziaria internazionale. Però c'è un dato molto importante che viene rilevato qua anche da alcune analisi di specialisti, che è questa: per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale l'America, l'Europa e il Giappone sono in recessione contemporaneamente, e qui si vede una grande opportunità non solo per la Cina ma per l'Asia intera di poter far da traino alla ripresa economica. Detto questo, io direi che c'è anche un'altra differenziazione da fare sulla Cina. Io vedo ci sono due Cine per quanto riguarda i dati economici. C'è la Cina del Sud, quella della zona di Canton, di Shenzhen, dove si producono quelle che si chiamano i consumer goods, cioè apparecchi elettronici, scarpe, giocattoli, tutte queste cose. I beni di consumo, più, diciamo così. Sì, che non vengono più importate dagli americani per motivi ovvi ed evidenti. Però c'è la Cina dal nord, quella che invece ha le fabbriche, che lavora, che ha un altro tipo di ripresa, che è un altro tipo di atteggiamento verso la crisi internazionale, che ha evidentemente un tipo di offensiva sul piano del lavoro che è diverso da quello che hanno le province del sud che sono in difficoltà. Questo si ricava anche dai dati, per esempio, del lavoro, delle probabilità di lavoro che ci saranno nei prossimi mesi. Il Ministero ha fatto delle indagini e risulta che circa il 70% delle aziende sono in grado di offrire a partire da oggi posti di lavoro ai contadini che vengono nelle grandi città, dalle campagne, e che non sono più tornati dopo la festa del Capodanno cinese. Questi dati contrastanti che secondo me fanno sì che si possa giudicare la Cina in diversi modi, ma secondo me è troppo presto per dare giudizi negativi e per cantare de profundis, come si fa da qualche parte. Cambiamo argomento, parliamo di notizie in arrivo dall'Italia sui giornali cinesi, naturalmente la morte di Eluana, ma anche la cittadinanza conferita dal Comune di Roma al Dalai Lama. Sentiamo da Luigi Guarda quale è stato il punto di vista cinese sugli argomenti. Per quanto riguarda la vicenda della Eluana Englaro, il China Daily riporta la notizia in una quindicina di righe, fa solo riferimento a notizie delle agenzie giornalistiche per quanto riguarda questa triste vicenda. Credo che più in là non si possa commentare questo. In Cina non ci sono commenti, dibattiti sul tema, no? No, assolutamente no. E per quanto invece riguarda la questione del Dalai Lama, direi che per quanto riguarda la stampa non si è dato un grande risalto. Quello che dà invece, che mi ha fatto molta impressione, è parlando con la gente, sono molto arrabbiati con gli italiani per questo tipo di atteggiamento verso il Dalai Lama. Cioè dicono: voi fate come i francesi, fate come Sarkozy. Ecco, loro hanno ancora negli occhi la visione della signora Sarkozy che è andata a omaggiare il Dalai Lama nel nord della Francia. E la cosa qua ha fatto molta impressione e dicono: voi state ripetendo la stessa cosa. Alla fine, naturalmente, alla fine Paolo, ecco, non ho altro da dire. Alla fine Paolo, il nostro eroe, perché c'è stato un contatto tra Paolo e Luigi Guarda, anzi Luigi Guarda gli ha offerto recentemente un lavoro molto ben pagato, ormai ha più offerte di lavoro Paolo di un ufficio di collocamento, però ben pagato ma lontanissimo da Shanghai, e Paolo ha rifiutato nel suo stile. Ecco il commento di Guarda. Paolo è una bella persona che ha un progetto di vita che in questo momento non contempla soluzioni alternative a quello che è il suo pensiero in questo momento dominante, cioè rimanere a Shanghai insieme con la sua fidanzata e cercare di trovare un accordo con la famiglia di lei. E qualsiasi offerta che tu gli possa fare, io gli ho fatto trapelare la possibilità di una posizione di lavoro al di fuori di Shanghai, nettamente rifiutato, ma dal suo punto di vista lo capisco. È giovane, ha questa grande passione per questa ragazza, e ripeto, una bella persona che ha anche un grande spirito, perché credo che difficilmente qualche altro al suo posto sarebbe così sereno e così non dico pimpante, ma quasi, insomma. Ma dove l'avresti cacciato, Paolo? In un posto disperso, sperduto nel nord della Cina? No, io ho proposto una posizione che adesso è stata ricoperta, ma che è nel nord-est della Cina, in un paese, in una città di 500.000 abitanti, ma che non offre sicuramente tutte le possibilità di svago, di divertimento e di altre cose che può offrire una città come Shanghai. Io mi sa che già vi sento che avevate già alzato il ditino dicendo: Paolo, scusa, fatti un po' in là, fammi passare questo lavoro, me lo piglio al volo, un lavoro stra ben pagato in una città della Cina con grandi prospettive, certo non moltissimo da fare, eh? Riparliamo a Jefferson Ming, Stefano Pistolini, Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Filippo Aureggi, la mail jefferson2@radio24.it. Su Facebook ci trovate per parlare con noi a redazione Jefferson 2, 2 scritto in parola, e la bacheca dove si dibatte come oggi su Darwin è Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, la replica a mezzanotte, il podcast sempre disponibile, la diretta alle 4 qui su Radio 24. Wait till